Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Veneto, buonasera da Blu Radio Sera e soprattutto buonasera da Agostino Spolaore e poi anche da Maurizio Calzavara, che sentiremo tra poco. In questa trasmissione che dedicheremo appunto alla nostra parte serale, all'inizio della parte serale, a una grande artista, lei stessa, o meglio, la critica dice lei ha la voce che arriva dall'anima. Questa artista in questione si chiama Sherita, però prima volevo salutare Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. E Sherita, ci sei? Sherita? Sì, ci sono, ciao. Buonasera Sherita. Grazie, buonasera. Come stai? Sto benissimo. Tutto bene? È passata una bella giornata oggi? Sì, sì, sì, è una bellissima giornata. Com'è lì il tempo a Pavia? Adesso il tempo è abbastanza bene, abbastanza bene. Allora, cosa ci racconti di bello? Guarda, adesso magari ci sono tantissime cose belle da raccontare, ma sono essere mamma è una cosa bellissima, perché io ho una bimba di 3 mesi e è veramente un amore, per cui sento questa esplosione d'amore. Come si chiama Noel, la bimba? Noel, Natale. Che vuol dire, sì, Natale in francese, sì. Certo. Dovuto a qualcosa questo nome, questa ricerca di questo nome? Sì, perché due motivi. Uno, il giorno in cui ho scoperto che ero incinta, mi sono appena svegliata, ho sentito il nome Noel. Ma la cosa interessante è che è un nome, dipende come viene pronunciato, ma è un nome maschile e femminile. Certo. E per cui io ho detto, ma sentendo questo nome Noel, e dopo ho scoperto che ero incinta, ho detto, ah, allora... c'è un significato, soprattutto quando ho scoperto che era femmina, perché la pronuncia, il nome è bellissima. E due, perché vuol dire Natale, certo. E Gesù per me è molto importante nella mia vita, per cui volevo anche un nome che dove si poteva pensare anche a Gesù, certo. Per cui Natale, certo. Noel. Allora, You Better Listen, il nuovo disco. Una voce dell'anima che arriva dall'America, dice la critica. Sì, Mario Luzzatto, Fedez Sherita ha scritto che sei un soprano acrobatico, una forza della natura. Mario Luzzatto Fedez è uno dei più grandi critici italiani di musica. Lo so, guarda, io ti dico, quando io ho letto quell'articolo di recensione sono rimasto proprio colpito, è veramente... è una bellissima cosa. Lui prima però mi ha sentito come soprano di lirica, per cui sì, esatto, sì. Ovviamente faccio anche la lirica, per cui anche era presente per la presentazione del mio disco, per cui guarda, quell'articolo lì è stato... sono rimasta contenta, devo dire soltanto quello. Tu sei californiana di Fresco, quindi la West Coast californiana, però tu di West Coast hai soul nell'anima, tanto soul. Guarda, io sì, vengo da California, ma in America ho vissuto tantissimi anni a New York, che proprio dall'altra parte. Dall' East Coast, allora, praticamente. Sì, per cui sono californiana di nascita, ma anche newyorkese di vissuta, per cui sono due estremi di America, ma due posti molto particolari, molto speciali. Poi tu hai fatto delle scuole molto importanti, hai studiato canto lirico e musica arti in California e poi hai ricevuto una borsa di studio, la Gerda Listen Foundation, quindi una borsa di studio molto importante, forse la borsa di studio più importante per le cantanti liriche americane. Ma a New York è sì, una cosa molto prestigiosa, per cui veramente sì, lì è quella borsa di studio a New York, è una cosa molto molto prestigiosa, per cui è stata una cosa molto importante per me quando ho vissuto a New York. E poi sei arrivata in Italia e ti sei innamorata dell'Italia, è così Sherita? Sì, io sono venuta la prima volta in 2000 e mi sono innamorata d'Italia e quando sono tornata nel 2004 tantissime cose della mia vita sono cambiate. Uno, ho trovato l'amore della mia vita che è adesso mio marito, per cui sono rimasta in Italia. Per cui Italia sì, è bellissimo. A parte l'amore, cosa ti piace dell'Italia? Mi piace la cucina. Mi piace, sì, la cucina è, guarda, è una cosa spettacolare, mi piacciono i vini italiani, mi piace, mi piace proprio i paesaggi di posti. Non c'è un posto in Italia, secondo me, che non sia bello, ma proprio proprio bellissimo, per cui per me nel nord, nel sud, nella parte centrale ci sono tutte queste città bellissime, tutti questi posti. Io, per me, io ho un debole per la Toscana per me è un posto dove io proprio che sogno, che è bellissimo, per cui mi piace anche il calore delle persone qui. Questo perché dopo 9 anni di New York la vita era troppo frenetica. Io penso che quando uno vive troppo veloce nelle cose, dove tutto gira attorno al lavoro, la carriera, di andare a fare questo o quell'altro, che si perde i veri significati della vita, si perde i momenti più belli, no? Proprio di stare in famiglia, di sedersi al tavolo con la famiglia, di mangiare tutti insieme, ma proprio di passare il tempo insieme così, senza guardare TV, tutti di fronte ai TV, ma proprio essere lì a parlare, mangiare insieme. Questa cultura che per me è bellissima, dove rimani collegato alle persone che sono più importanti per te, no? Certo. È qualcosa che dipende dove vivi in America, soprattutto un posto come New York, è qualcosa che veramente non lo trovi, no? Non è al centro della persona, chiaramente, là. Ci sono altri valori, diciamo. Eh sì, perché lì la gente è troppo presa da tutte le altre cose, certo. No? Si mangia lì al computer, al lavoro, sì. Mentre cammina al lavoro. Esatto. che proprio uno è troppo preso per vedere alcuni amici, no? Sai, proprio la vita, anche se uno ha tantissime cose da fare, cioè, la cosa importante è sempre di tenere i piedi per terra, no? Di tenere stretti le persone più care, proprio di godere la vita, no? Perché c'è un detto che in America si vive per lavorare, no? E si dice che in Italia si lavora per vivere. Sì. Esatto. Io, quello è, secondo me, è vero, dalla mia esperienza è vero, per cui l'uomo non è stato creato per lavorare soltanto, per far girare tutto attorno al lavoro. Uno deve vivere la vita e goderla, no? E per cui in Italia veramente ho scoperto che c'è questa cultura di godere la vita, di apprezzare le cose belle. E tornando al discorso della cucina, proprio lì non c'è un posto in Italia, secondo me, dove non si mangia bene. Tu hai imparato tu a cucinare qualcosa italiano? O si arrangia tutto tuo marito, che, diciamo, il nome è Antonio Puccio? Guarda, io a me piace di cucinare, ma non come lui. Lui ha la passione per la cucina, che è diverso. Certo. Io mi sono cresciuto in una famiglia con due genitori che erano dei chef, per cui mi sono cresciuto nei ristoranti, ma non ho mai avuto quella passione per la cucina. E sono abbastanza bravo a cucinare, anche mio marito, secondo me, direbbe lui anche la stessa cosa, ma lui veramente ha questa passione che è pazzesco, certo. Vabbè. Ascoltami, com'è stato il tuo approccio con Broadway? So che era uno dei tuoi sogni da quando era piccola. Guarda, per me Broadway per me è stato uno dei lavori più tosti che io abbia mai fatto, dove lì praticamente mi ha insegnato tantissime cose. Ho imparato tanto già da partire dalla lirica ho capito cosa vuol dire la disciplina, perché sì, con la lirica e la disciplina sono due cose che vanno insieme, certo. Punto. Ma al Broadway lì non è soltanto il canto, uno deve saper fare, uno deve sapere cantare, ballare, recitare, fare un po' di tutto, per cui è stata un'esperienza bellissima di fare quei musical. Sì. Proprio anche lì ogni settimana si faceva 8 spettacoli ogni settimana, con un giorno di riposo, per cui volevo dire che magari 2 giorni a settimana facevi 2 spettacoli uno dopo l'altro, no? Certo. Ovviamente una pausa per mangiare, ma una cosa molto impegnativa, per cui è stata una bellissima esperienza. Infatti mi manca tanto il mondo del musical. Infatti. Senti, io volevo dirti, ieri sera ascoltando su YouTube ho scoperto una canzone che io amo moltissimo e l'ho sentita non nella versione originale di Ted Neely, ma nella versione tua, che è una canzone tratta da Jesus Christ Superstar. E la canzone in questione è I Only Want to Say, quello che lui sale nel colle, nel monte, e dice al Signore perché io voglio solamente parlare. L'hai fatto in una maniera splendida e sinceramente mi sono anche veramente commosso. Come mai? Era un pezzo tratto da un tuo, dal tuo modo di fare musical, o è stata solamente una cosa così improvvisata? Guarda, veramente da quando sono qui in Italia, un paio di anni fa, io ho cominciato a fare uno spettacolo che si chiama Notorious. E praticamente questo spettacolo era un musical di lirica associato alla musica rock, per cui eravamo in tre soprano di lirica che facevamo dei pezzi rock ma con la voce di lirica. Per esempio, immagina Stairway to Heaven di Led Zeppelin o Money di Pink Floyd, cantato tutti con la voce di lirica, da tre soprano o da una soprano, così. E infatti quel pezzo lì è venuto fuori, e c'erano anche pezzi, arie conosciute come Sempre Libera di La Traviata, che ho cantato io, sì, ma sempre con la musica sotto, con questo arrangiamento un po' rockettaro, no? Ma sempre con la voce lirica. E è venuto fuori, il regista ci teneva di farmi fare una versione nello spettacolo di Gethsemane, I Only Want to Say. Che bella, che bellissima. Dove praticamente ero Gesù Cristo in femminile in questo momento, certo, quando ero lì inginocchiato nel giardino a piangere, sì, no? Sì, davanti, sì, a Dio. Sì, sì, sì. Poi, anche ogni volta che lo cantavo in scena, piangevo. Era impossibile di non piangere, era una cosa proprio fortissimo per me, mi sono commossa ogni volta, per cui anche l'arrangiamento è stato fatto da Gian Maria Scatolin, che era l'arrangiatore del musical, e sì, devo dire che ha fatto un lavoro pazzesco, perché ha fatto questo arrangiamento per la mia voce, e alla fine è venuto fuori qualcosa che per me è, vado molto fiero di quel pezzo lì, anche lì, anche come a livello delle emozioni, certo, alle emozioni, io è qualcosa di importante per me. Infatti io veramente l'amo moltissimo quella canzone, già nel film in sé è stato un momento molto bello, poi sentirla cantare anche da te, sinceramente ieri sera mentre pensavo a questa sera dicevo, ma che voce che ha Sherita, che emozione che trasmette, sinceramente sentire che tu stessa provi emozione mentre la canti, provi commozione, penso sia una cosa bellissima, è proprio la voce che arriva dall'anima. Vogliamo ascoltare qualcosa di tuo adesso? Va bene, va bene. Cosa ci proponi di ascoltare? Guarda, io direi, no, io vorrei, no, scegli tu. Quello che vuoi sentire tu. Io proporrei il singolo subito. Sì, facciamo sentire il singolo, sì. Allora, ne parliamo un attimino di questo singolo? Sì, sì, sì, certo. Allora, dimmi. You Better Listen, giusto? You Better Listen. Sì. Praticamente questo, il CD, la maggior parte delle canzoni ho scritto io, la musica e le parole, e le altre che... questo qui ho fatto insieme, il mio produttore musicale mi ha aiutato a finire questo brano qua, You Better Listen, perché mi sono venute le parole mentre stavo pregando praticamente, mi è venuta questa melodia, proprio questo desiderio di poter raccontare una storia che praticamente che parla della verità, You Better Listen, che vuol dire meglio che ascolti, e volevo dire che è meglio che ascoltiamo la voce dentro di noi, che è Dio, che è lì per il nostro bene, no? Perché a volte nella vita, per esempio, uno inizia un rapporto con una persona e dentro di sé sa che non va bene, che non dovrebbe farlo, perché alla fine andrà a finire male, no? Si sente questa cosa prima, ma cosa succede? A volte le persone non ascoltano questa voce qui e vanno avanti a fare le cose che li fanno male alla fine, no? Per cui volevo dire questo, che se sai la verità è meglio di riconoscerla e di non fare lo stupido. Certo. Meglio che ascolti. Va bene, ce l'ascoltiamo, la presenti tu. Vorrei presentare You Better Listen. Sherita. he breaks your heart in two and tells you it's all through. Girl, what you're gonna find in the back of your mind when you remember you didn't do what you're supposed to? Oh, remember that little voice inside you there to protect you, respect you. But you didn't believe it. Oh, remember that little voice that warned you that he would hurt you, desert you. But you didn't listen. Listen, oh listen. You better listen. You don't have to play the fool. Listen, oh listen. You better listen. Listen to the truth. So not about you, boy. What you're gonna find in the back of your mind when you remember you gave your trust and then they stole you blind? Oh, remember that little voice inside you there to protect you, respect you. But you didn't believe it. Oh, remember that little voice that warned you they would abuse you. But you didn't listen. You better recognize, boy, you don't have to play the fool. You don't have to play cool. So what are you trying to prove? You better listen. Is it black or is it white? Is it wrong or is it right? Don't you play the fool this time. You better listen. All that glitters is in gold. So don't you lose your self-control. The truth is worth much more than gold. Blu Radio Sera. Eccoci ancora qui in diretta, sempre da Blu Radio Veneto, sempre da Blu Radio Sera, con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara, a conoscere una cantante che, secondo il mio punto di vista, anche quello di Maurizio ovviamente, è veramente bravissima. Sherita, sei sempre lì, vero? Sì, guarda, grazie. Grazie per il complimento. Oh, figurati. Sono contento che ti piace la canzone, la mia voce. Sì, sì. Io poi ti farò sentire quella che piace di più a me, che la metto sempre nella mia pagina di Facebook perché mi sono innamorato già della tua esibizione con il coro. Vabbè, poi ne parliamo dopo. C'era Maurizio, c'era Maurizio che voleva chiederti una cosa. Ti chiedo una cosa, Sherita. Tu hai detto, per me scrivere canzoni è come avere dei figli, cantare pezzi di altri è bello, ma è molto diverso che interpretare i propri. Perché? Perché tu hai interpretato anche pezzi di altri, però interpretare i propri è un'altra cosa, Sherita. Non è così? Sì, sì, è proprio, infatti questo disco qua per me è come un figlio musicale, ovviamente ogni canzone è come un figlio musicale, ma non vuol dire sempre che è più facile di cantare le tue proprie canzoni, perché invece io ho provato una difficoltà delle volte, no? Perché ci sono delle volte quando scrivo una canzone e sento che magari potrebbe andar meglio per un'altra voce, okay. ma magari ovviamente mi piace la canzone, mi piace il stile, ma dentro di me sento che ci vuole un'altra voce. Infatti c'è una canzone sul disco che per me, io avevo un'altra voce in mente, come un feeling, nel senso che vengono fuori come se fossero già il DNA della musica e del testo, che dovevano venire fuori così, no? Non che esce il figlio vero e dici no, adesso ti cambi, no? Non mi piace, vorrei invece una maschietta piuttosto di una femmina o viceversa, no? Sì, sì. E questi brani erano così, come se ciascuna canzone aveva la sua personalità, no? Per cui essendo qualcosa molto personale, contesti che parlavano della mia vita personale, situazioni, e anche per l'amore che ho per Dio, è qualcosa in più, è proprio qualcosa che viene della tua anima, tuo cuore, che ha una carica in più, secondo me. Che non vuol dire che ovviamente che non mi piace di cantare e fare brani degli altri, che anche è bello, ma è diverso. E tu hai fatto una cosa straordinaria, tu hai detto che è stata un'esperienza elettrizzante cantare con Mondo Marcio, che è un rapper praticamente. Elettrizzante per te. È stata una bella esperienza, è stato bello, e soprattutto quella canzone che abbiamo fatto insieme, Segui la Stella. Benissimo. Sì, esatto, Segui la Stella, esatto. Cioè, tu hai fatto tante cose, però giustamente un disco tuo è ben diverso, e mi sono entusiasmato a sentire il primo pezzo dell'album, che si chiama Alabaster Heart, un arrangiamento quasi epico, secondo me, molto strano, molto complesso. Guarda, quello era una canzone che quando quell'arrangiamento lì sul disco è proprio l'arrangiamento di Gian Maria Scatoline, il mio produttore musicale, e lui ha fatto un lavoro pazzesco proprio sugli arrangiamenti. Ma quando l'ho scritto, io avevo in testa gli archi, avevo scritto un'introduzione molto più lunga soltanto con gli archi, e sentendo molto una voce più da musical, quasi di lirica, sì. Così alla fine lui ha fatto un arrangiamento un po' diverso, ma mi è piaciuto lo stesso, è diverso, ma mi piacerebbe nel futuro di fare la versione che ho fatto all'inizio, no? Ah, ho capito. Era molto con gli archi, così qualcosa proprio orchestra, con l'orchestra grande così. Sì, quello è un pezzo che sembra qualcosa da un musical. Esatto, e io sì. Lo immaginavo così, perché c'è parlo di questo personaggio dalla Bibbia, questa donna che entra nella casa dove Gesù stava cenando, e lei entra nella casa e sparge sui piedi di Gesù questo olio profumato di gran valore, e le persone sono rimaste colpiti perché hanno detto, ma guarda che spreco, perché con questo olio uno poteva venderlo e prendere i soldi per dare ai poveri, no? Ma lei ha fatto questo grande gesto di adorazione e d'amore verso Gesù, che è bellissimo proprio, che lì con le lacrime ha lavato i piedi di Gesù e con i suoi capelli li ha asciugati, a lei non importava cosa dicevano le persone, che lei entrava in questa casa dove non è stata invitata per cercare Gesù, per adorare i suoi piedi. Per cui io immaginavo questa donna, e infatti è un musical, se fosse un musical questo personaggio immaginavo questo personaggio, per cui praticamente è un qualcosa teatrale quel pezzo di Alabaster Heart. Cioè, a me è piaciuto particolarmente, sì, avevo intuito che era, poteva essere un musical, poteva essere sviluppato, però è un grande pezzo, un'apertura un po' diversa rispetto agli altri pezzi secondo me, ma è positiva a mio parere chiaramente. Apre la finestra di un album pieno di tante cose, di tanti elementi, di tante facce, c'è il sole, tu dici che ti sei ispirata, il tuo punto di riferimento è Alicia Kay oppure Mary G. Blige, cioè i tuoi punti di riferimento, però la musica è tua, lo sviluppo è tuo, chiaramente. Eh sì, guarda, io mi piacciono loro come artisti, ma qui la cosa, all'inizio di questo progetto, la cosa più difficile era questo, visto che io sono una persona che riesco di cantare tantissimi stili diversi, che a me piace tanti stili diversi, io non ero sicuro come definire il disco, non ero sicuro della direzione, e cercando di spiegare al produttore musicale, all'arrangiatore, ciò che avevo in testa quando ho scritto i pezzi non era facile, perché lì un brano era più soul, un'altra canzone più gospel, c'era Alabaster Heart che sembrava qualcosa da un musical, c'era un'altra cosa, che tutte queste cose diverse, no? Che su un disco ovviamente ci vuole la cosa che il filo che riesce a collegare tutti i brani, no? Alla fine sullo stesso disco. Però quello è stato un po' difficile, di trovare il mio stile, praticamente. Certo. Alla fine, no? Ma quello che piace di più a te qual è? Ce n'hai uno in particolare o sono tutti allo stesso livello? Guarda, a me piacciono tutti, ma però ci sono alcuni che per me hanno un significato in più. Devo dire che You Are è una delle canzoni che per me è la mia preferita, perché è una preghiera, quella canzone è una preghiera, è qualcosa che quando l'ho scritto veramente c'era qualcosa di diverso lì. È quella che ti parlavo poc'anzi, è quella che piace a me. Guarda, sono contento. Sai che tante persone mi dicono la stessa cosa? È bello di sentirlo, perché non è una canzone, commerciale che si sente, no, infatti, in radio. È una canzone gospel contemporanea. Infatti, per infatti, cui infatti. Quello per me è una mia preghiera. E grazie, guarda, sono contento che ti piace quello che proprio. Sai, io c'ho una passione per un gruppo qui padovano che si chiamano Samate, che cantano il gospel e cantano soprattutto le musiche di Kirk Franklin. Ho scoperto che anche tu sei amante di quell'autore. Guarda, Kirk Franklin è uno dei miei artisti preferiti, infatti per me il suo coro è gospel, è uno dei migliori in tutto il mondo, proprio. Lo so. lui come autore scrive delle cose meravigliose, si vede, si sente che lui è un uomo che ama Dio, e che veramente, secondo me, ci sono musica così non si può fingere, no, infatti, non viene fuori da nulla, è un grande autore, fuori da un grande amore. E quello You Are, tornando al discorso di quali sono le mie canzoni preferite, You Are è uno, e un'altra è You Came For Me. Sì. Ma però l'arrangiamento originale che avevo fatto io, che non è l'arrangiamento che si sente sul disco. E ti spiego perché quella canzone era una delle prime canzoni che ho scritto tutto da solo, per cui per me aveva un significato, perché non che sono questa autrice di compositrice di canzoni da tantissimi anni, per cui era cosa che avevo cominciato da poco, no? Per cui quando ho scritto quella canzone lì c'era qualcosa che mi ha dato ispirazione, la carica di andare avanti, no? Di poter, certo, dire guarda, io sono capace di scrivere la musica con il testo tutto. E l'arrangiamento che ho fatto io era più, diciamo, più un gospel contemporaneo, per cui anche lì, come Alabaster Heart, come l'ho sentito in testa mia quando lo stavo facendo, quando lo stavo creando, è diverso rispetto alla versione sul disco, per cui nel futuro vorrei fare la versione originale, no? Che è molto più funky. Negli spettacoli la versione tua la fai, la vorresti fare oppure no? La tua versione originale? Se, nei spettacoli, se sì, nei concerti che farai, certamente. Guarda, io ho fatto dei concerti dove ho fatto alcuni brani miei, sì. Ma ovviamente mi piacerebbe di fare un concerto di tutti i brani miei, con gli arrangiamenti, anche gli arrangiamenti originali. Ecco, quello vuol dire, proprio gli arrangiamenti originali, intendevo questo qua. Sì, di sicuro sì. Perché quando ho fatto la presentazione del disco, la band era bravissima. Infatti lì era la prima volta che ho sentito i brani proprio così, con una band dal vivo, perché ovviamente nello studio c'è tutto proprio, c'erano 3.000 voci che avevo messo giù e già Amari avevo fatto un lavoro pazzesco con tutti gli strumenti, così è molto diverso il lavoro di studio. Ma nel futuro vorrei fare un qualcosa soprattutto con You Came For Me, che era la mia versione originale, che è molto funky, che è Alabaster Heart con l'orchestra. Senti, ci ascoltiamo qualcosa allora? Cosa vuoi ascoltare? Vuoi che ascoltiamo You Came For Me o qualcos'altro? Guarda, scegli tu. Facciamo quello che you are. La tua preferita è anche una delle mie preferite. Sì, sì. Io me la sento sempre, oltre che dal disco, anche nella, dove sei stata nella trasmissione di Canale 5, se non sbaglio, giusto? Sì. Con il coro. Con il coro, lì c'è un'interpretazione tua veramente splendida, e poi questo coro gospel dietro è veramente un'immagine bellissima di questa canzone. A me mi emoziona. Grazie. Io, guarda, come l'hai visto nel video, io ero a pezzi. Di cantare quel pezzo per me è uno di quei brani che mi commuovo quasi tutte le volte che la canto, proprio con le lacrime. Lì quel giorno lì era difficilissimo di cantare, ero proprio a pezzi. Perché allora, l'emozione era troppo. Senti, noi chiudiamo il microfono, se piangiamo sia io che te, nessuno ci sente, va bene? Okay, va bene. Ascoltiamo allora You Are da Time on the Butterfly, il nuovo disco di Shurita. You gave your life for me. There are no words that I can. say to describe how your blood, it washed my sin away. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Spot. Cercare segni di speranza per l'Italia di oggi. Con questo impegnativo programma, la Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Padova aprirà sabato 9 ottobre il nuovo anno formativo. La proposta è rivolta a persone impegnate in ambito sociale ed ecclesiale ed anche ad amministratori e politici. Per i giovani è un percorso che aiuta ad iniziare con consapevolezza l'impegno nella società e nella politica da cittadini responsabili. Il corso inizierà il 9 ottobre alle 15.30 presso la Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario 29. Per informazioni telefonare allo 049 877 1705. Email pastoralesociale@diocesipadova.it. Radio Sera. Blu Radio Sera. Sherita, come stai? Bene. Bene tu? Ti sei ripreso? Sì, io mi commuovo sempre. Poi, come ti dicevo prima, io c'ho veramente amo moltissimo il gospel in tutte le sue forme, soprattutto quello di Kirk Franklin, come ti dicevo, ma non solo. E quindi sentire te che canti in questa maniera così simile al gospel è stata una cosa veramente stupenda. Poi dici anche delle parole inerenti proprio anche al discorso che porta avanti il gospel, e questo mi fa veramente molto molto piacere. Mi piace moltissimo come canti te il gospel. Grazie. Io spero di ascoltarti, di vederti in qualche concerto, magari qui nella zona, non si sa mai. Sì, infatti, guarda, sì. Infatti. Ascolta. Chiederà. Allora, ti porto le congratulazioni di Onorio, che ti sta ascoltando, ci fa i complimenti. Mi è arrivato un messaggio. Grazie. Un abbraccio. Un abbraccio a Onorio. Allora, a proposito di concerti, hai qualche tournée, qualcosa in programma? Guarda, adesso ci sono cose diverse. Che ho appena fatto un concerto a Teatro Fraschini a Pavia il 25 di questo mese, che è stato un tributo a Michael Jackson, che è stato molto bello. Non c'ero soltanto io, ma c'erano dei cori, altri artisti, ballerini. Io cantato due brani, è stato proprio bello, è tutto di vedere tutto teatro pieno, esaurito proprio per questo evento qua. Per cui adesso sto facendo la mia vita un po' particolare, perché a volte un concerto è un concerto gospel, o è un concerto jazz, e adesso sto preparando anche la lirica adesso, per cui mi sento che sto facendo 3000 cose. Certo. Io so che un tuo sogno è suonare e cantare alla Scala di Milano. Eh sì. Infatti. Ma ci mettiamo una buona parolina noi, va bene? Va bene. Un'opera lirica alla Scala di Milano non sarebbe male. Non sarebbe male. Non sarebbe male per niente. Quello è anche un sogno da piccola, veramente. Lo so. Abbiamo scrutato un po' i tuoi gusti e i tuoi desideri, insomma. C'è un pezzo, Sharita, che mi piace particolarmente, ti spiego il perché, è Let There Be. Perché? Perché mi ricorda il piano iniziale, mi ricorda i grandi pezzi di Jim Steinman, quello che scriveva i pezzi per Bonnie Tyler. Cosa ne pensi, Sharita? Wow! Mi ricorda quello, allora, veramente. Jim Steinman è un grandissimo musicista americano, un grandissimo autore. James Taylor, davvero? James Steinman. Guarda, io, scusami, non lo conosco proprio. E ha scritto i grandi pezzi di Bonnie Tyler, te la ricordi Bonnie Tyler? Sì, lei la conosco, sì, quella voce. Total Eclipse of the Heart l'ha scritto Jim Steinman. Oh, wow, quello sì è stato un grande hit. Per cui dici, Let There Be ti fa ricordare... Sì, questo pianoforte iniziale, questo svolgimento, questo allargamento dei suoni, mi ricorda proprio l'enfasi dei grandi pezzi di Jim Steinman. Wow. E per quello l'ho amato particolarmente questo pezzo, che è la traccia numero 4 del tuo disco. Molto bello, molto, molto significativo secondo me. Wow. Perché anche ha fatto dei musical Jim Steinman, vedi? C'è un collegamento, c'è un'unione. Wow, infatti io adesso dovrei andare su internet a vedere altri pezzi che ha fatto Jim Steinman, perché oltre Total Eclipse of the Heart, quello è un pezzo favoloso, meraviglioso. E l'arrangiamento, quel suono un po' particolare, quel suono coinvolgente, sì. L'idea di Jim Steinman. Wow, sai una cosa di questo pezzo? Questo è l'ultima canzone che ho scritto per l'album, per il disco. Infatti... veramente, e non soltanto quello, ti ricordi quando ho detto che alcune canzoni immaginavo un'altra voce? Esatto, sì. Questo è una di quelle canzoni. Io immaginavo, non so se è presente un gruppo cristiano che si chiama Casting Crowns. No, non li conosco questi. Immaginavo una voce maschile, una di quelle voci maschile un po', sai, molto forte, potente, così, molto americana, non so come descriverlo, ma quella è la voce che avevo in mente quando ho fatto questo brano. Ovviamente alla fine l'ho cantato io. È chiaro, chiaro, chissà che nel futuro farà quel gruppo lì, no? Non lo so, vediamo. Quindi diventi anche autrice praticamente in questo modo, per questo gruppo. E non si sa mai, assolutamente. Lo sono bravi, no, non hanno bisogno di me, ma però. È un pezzo che è stata una di quelle canzoni che non era così facile di cantare come lo immaginavo, perché in testa immaginavo un'altra voce. Ma però anche io mi sono molto affezionato con la canzone lì, perché dentro, alla fine, perché questo disco per me è basato su la mia spiritualità proprio, io alla fine io avevo, e come ho detto prima, You Are era una preghiera, in questo pezzo qui io ho detto... a Dio, che volevo fare una canzone, visto che Dio mi aveva dato questo dono, questa voce, no? Per poter esprimere tantissime emozioni. E io volevo scrivere una canzone che parlava della voce di Dio nella Bibbia. E per cui io ho cercato tutti questi passaggi biblici che parlava della voce di Dio. in tutte situazioni diverse, anche la voce di Gesù quando lui era in Getsemani, e momenti biblici quando lui parlava con le persone, e anche come la voce di Dio, come una voce di tuono, no? Sì. Per cui per me ha quel significato lì, che, perché dopo che ho fatto la preghiera di poter scrivere una canzone per quel scopo lì, mi è venuta questa canzone proprio e questa ispirazione per farlo, no? Perfetto, la sentiamo allora, cosa dici Serita? Va bene. Let there be, allora Serita. Let there be. Your voice, miracle of life, when you spoke the world into being, you said, let there be light, and the light became day, and the darkness night, and it all began with your voice saying, let there be. Radio Sera. Blu Radio Sera. Questo è sempre il Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore assieme a Maurizio Calzavara. Stiamo veramente vivendo un momento bellissimo con una cantante, tra l'altro bravissima, oltre che molto bella, questa voce che arriva dall'anima, veramente è una cosa splendida. Sherita, ci stai emozionando, ci stai rendendo una serata bellissima, veramente, cara, mi piace tantissimo. Mi sei piaciuta subito, quando Alberto Prisco, che poi tra l'altro è il nostro direttore artistico, mi disse, Agostino, ho questa cantante, vuoi ascoltare, so che a te piace questo tipo di musica, vedi se ti piace. Ricordo che ero in diretta con lui, mesi su il brano, il primo disco, la prima canzone, insomma, restai subito preso da questa tua bravura, insomma, sei veramente... grande. Grazie mille. E per parlare di questo pezzo, Sherita, qui c'è proprio te in tutti i sensi, musicalmente parlando, un inizio proprio di forza e poi un gospel finale, poi si ritorna al tema, perché Jim Steinman è l'autore di tutti i dischi di Meatloaf, te lo ricordi Meatloaf? Di chi? Meatloaf, la band sì. Bottle of Tell. Oh. È quello, è Jim Steinman, l'autore di quel disco che ha fatto milioni di copie, è stato lui, wow. È stato lui, Jim Steinman, sempre lui, quindi questa esplosione, questo, c'è il musical qua dentro, ma c'è anche il gospel, c'è la tua forza, secondo me questo pezzo racchiude tutto il disco, l'essenza di tutto il disco a mio parere. Oh, grazie, anche per me, veramente. Wow. Sherita, ma ti ispira così tanto, ti vengono fuori così tanto le canzoni mentre fai la spesa? ma sai la cosa che succede? Che quando questo disco stava venendo fuori, io veramente stavo vivendo un momento di un tempo di ispirazione dove quando dormivo sognavo la musica. Infatti avevo il registratore proprio a fianco al letto, perché mi alzavo di notte sentendo la musica in testa mentre dormivo, e mi alzavo per registrare una melodia, un qualcosa di suonare sul pianoforte, e a volte mi sono alzato dal letto per andare lì alla tastiera per mettere giù un'idea, per cui ovunque mi andavo c'era la musica che mi usciva dall'anima proprio. Ma non sempre momenti convenienti, no? Potevo essere lì al cinema, proprio track, lì è la tema principale di un pezzo, e dovevo proprio usare anche il cellulare per registrare le idee. Certo. Dopo a casa mi sono messo lì a suonare per collegare tutto. È stato proprio un periodo proprio di ondate di musica, praticamente. Tu suoni qualche strumento? Sì, piano. Ovviamente è quando sto componendo, per cui lì non ho un pianoforte a casa, ma ho una tastiera, per cui per queste canzoni qua io le ho scritte sulla tastiera. E praticamente ho imparato, come si dice, mi sono sforzato di suonare il piano e la tastiera apposta per tirar fuori queste canzoni, perché era l'unico modo che avevo per tirarli fuori, no? Certo. E non che sono una grandissima pianista, ma ero lì proprio, il mio marito lo sa, che ero lì a volte con fatica di suonare, di mettere giù gli accordi di cose che sentivo in testa. E te ne sono venute veramente tantissime. Sì. Senti, vediamo cosa viene fuori per il prossimo disco. Ecco. Ascolta, me la fai un po' di a cappella di Amazing Grace? Ce la fai? Ah, certo. Così sentiamo che la tua voce è senza musica, senza niente, come sei. Ti lascio il microfono, vai. Ok. Amazing Grace, how sweet, how sweet the sound. Oh, that's saved, that saved a wretch like me. Come si fa? Non è Maurizio. Bravissima, Cerita, bravissima. Oh, è solo per telefono. Solo per telefono. Senti, ce la vieni a cantare qui dal vivo? Oh, grazie. Guarda, grazie mille. Sei bravissima. Sono qui a tavolo in pigiama e... Poveri... È bellissima sta cosa. Guarda, c'è una Miria che mi dice altro che brividi, è un portento. Si riferisce a quello che ha appena sentito. Oh, la Silvia mi dice gentili, la Silvia mi sta dicendo che hai una voce bellissima. Io ricevo i messaggi qui che vedo tramite Facebook. Sono estasiati, veramente. Oh, grazie a tutti, veramente. Ti aspettiamo comunque una sera qui che ci vieni a cantare qualcosa dal vivo, vero? Sì, facciamo una bella serata così, sentiamo la voce qui ai nostri studi, ti vediamo anche con le telecamere, così facciamo vedere anche la tua presenza scenica e la tua bellezza, insomma, di donna, insomma. Oh, grazie. Se vuoi venire con Noel, magari. Oh, sì, porto la bambina, che ormai lei è abituata alla musica, infatti ho cantato per 9 mesi e girato ovunque, fatto un sacco di concerti in gravidanza e per cui a volte, spesso quando cantavo lei sembrava che stava ballando dentro la pancia, no? Sì. E adesso proprio se la portiamo mentre sto facendo un concerto si addormenta. È talmente abituata. E infatti dorme. Proprio bella, bellissima. Senti, cosa c'hai prossimamente di, diciamo, grosse speranze, di grossi eventi? Di grossi eventi? Qualche concerto tuo personale? Guarda, di solito i concerti di gospel vengono a novembre, dicembre, sì, per qualche motivo va tantissimo in quel periodo lì, ma lo trovo interessante perché in America il gospel non è una cosa soltanto di per Natale, no? Certo. È una cosa che tutto l'anno, per cui adesso, scusami, non mi viene niente in mente in questo momento perché veramente devo guardare nell'agenda proprio. Ah, va bene, solo... Che io, proprio il mio marito, proprio tiene l'elenco di certo. concerti, ma però su Facebook sì. e su MySpace, cioè, e anche sul mio sito. Allora, vogliamo allora ricordati sia il Facebook, MySpace che il tuo sito, ricorda pure. Sì, si può vedere tutti quando sto facendo concerti, le date e dove faccio i concerti, per cui lì sull'internet si vede tutto. Dai pure gli indirizzi. Cosa? Dai pure gli indirizzi di MySpace. Sì, Facebook sì anche. Ovviamente tutto il mondo intero lì si trova su Facebook. Sì. Comunque no, ma se io ti voglio cercare o la gente che ti sta ascoltando vuole cercarti su MySpace, su Facebook, cosa deve digitare? Cosa deve scrivere? Soltanto il mio nome. Pronto? È caduta la linea? Mi sa proprio di sì. sì, è caduta. Probabilmente il telefonino, forse che... Vabbè, il problema... Mettiamo su un pezzo, sì, cosa ascoltiamo? Cosa ascoltiamo finché la... Mettiamo su Alabaster Heart, che è il pezzo di cui abbiamo parlato all'inizio, che doveva essere cambiato, invece è stato eseguito in questa versione. Ok. Thank you. judging eyes, those who did not care that I was empty and broken inside, then I found to clean your feet and the locks of my hair, perfume in an alabaster box, and my heart open bare, I offer them to you. Just one look, you reached inside my soul. Just one look, you loved and made me whole. Inside your eyes, I found what I'd been searching for. A love that was real. Radio Sera. Era Alabaster Heart da questo capolavoro. Secondo il mio punto di vista, questo CD, questo lavoro è un capolavoro. Permettetemi questo giro di parole, si chiama Time of Butterfly, cantato da Sherita Duran. Il butterfly sta per farfalla, come lei, come Sherita. Oh, grazie mille. Sei veramente dolcissima. Allora, è caduta la linea, ci stavamo parlando del sito. myspace.com/Sharita Duran, o anche su Facebook, basta mettere il mio nome Sharita Duran, o il mio sito che è www.sharita.com, Sharita scritto SHERITA. Okay. Per cui, per altre cose che concetti che ho da fare, c'è qualcosa di molto bello in novembre a Roma per questo premio Minerva, una premiazione per le donne per l'anno 2010, per cui lì farò dei brani gospel. E adesso siamo trattativi per tanti concerti gospel per dicembre. Ti terrò aggiornato. Sì, intanto siamo in contatto. Se riesco a fare qualcosa dalla tua parte, certo, ti faccio sapere. Sì, ma tieniti libera per i primi giorni di dicembre, non si sa mai. Ma non diciamo altro, va bene? Va bene. Una cosa molto importante, Sharita, tu hai autoprodotto il disco. Guarda, in questo senso, qui è bello ma non è bello, nel senso che alla fine le edizioni sono andate a Smilex, che loro hanno stampato il disco, sì. Ma tipo la verità, per quanto riguarda il lavoro dietro, è stato noi praticamente che con lì un lavoro pazzesco per realizzare questo progetto, veramente, veramente un lavoro pazzesco, ma ne valeva la pena, e sono molto fiero di tutto, di come è venuto fuori, veramente sono molto fiero del progetto. È stata soddisfatta al 100%? Sì, oh sì, guarda, veramente sì, per me veramente mi fa sentire, è molto bello che uno come te, persone come te piacciono le canzoni, quando per me è la prima volta che ho fatto un disco con le mie canzoni, come autrice, compositrice, e anche ho avuto modo di poter lavorare con musicisti bravissimi come Gian Maria, che è un produttore musicale, che ha fatto tutti quei arrangiamenti, che è anche coautore di alcuni brani, per cui lì... Se vuoi ricordare i tuoi musicisti, fallo pure. Ah sì, su You Are, la tua canzone preferita. Grazie. Enrico Salvato suonava il pianoforte, che lui è un pianista con cui faccio un sacco di lavoro per il gospel, ti dico, lui è bravissimo, infatti noi lavoriamo tanto insieme, e per me suona come in America, in chiesa dove andavo prima, in America, dove è bravissimo. E Letter B, il pianoforte all'inizio che parlavi prima, è Christian Brecchia, lui suona nella chiesa che frequento a Pavia, per il resto tutto l'arrangiamento è stato Gian Maria, per cui ci sono anche altri musicisti bravissimi come Ciro Burchiano, che ha suonato tutte le parti del basso per le canzoni. Veramente è stata un'esperienza unica, bellissima proprio, di poter esprimermi così, di poter tirar fuori e trasmettere ciò che ho nel mio cuore. Hai mai avuto paura che ciò non accadesse? No, non voglio dire paura, ma la cosa che mi ha dato fastidio, se posso dire, è che proprio volevo che venisse fuori più velocemente. Ah. Era proprio la fretta, sai, che quando, sì, certo, quando piaci una cosa che veramente vuoi che viene fuori subito, no? Uh-huh. Ma non è sempre così, è sempre il discorso anche come un figlio, no? E sono figli musicali che non puoi decidere, devi aspettare, il bambino naturale ci vogliono 9 mesi, no? Certo. E per la musica ci voleva il suo tempo. Ovviamente anche, come ho spiegato, tutto il lavoro dietro, anche e soprattutto grazie al mio marito, che lui ha fatto un lavoro pazzesco come manager, come ha organizzato un sacco di interviste, e un sacco di, come se lui fosse l'ufficio stampa intero, lui veramente abbiamo fatto un lavoro di squadra proprio fortissimo. e anche il lavoro di, del mio produttore musicale, tutte quelle ore. Io sono una persona, con una roba tua a volte diventi, come si dice, pignola, che o magari dovevo farlo così, cosa così, e io sono contento che non ho fatto diventare matto alla fine perché dicevo, ah, magari dovevo cantarlo così, no, magari devo cantarlo proprio, sai, l'energia, la passione, la gioia per fare qualcosa fatto bene, no? Certo. E comunque bello, sono contenta, ho imparato tanto. Benissimo, cioè, è una cosa molto positiva fare un disco da solo, cioè con tutti gli amici che ti hanno dato una mano, però l'idea è partita da te, è un'idea forte, un'idea positiva, non è semplice, non è facile. Tu hai scritto in un'intervista, il soul, portare il soul, fare un disco di soul è un po' difficile, è complesso, arduo. È perché anche qui ovviamente era un qualcosa che dovevo fare, sentivo che dovevo farlo e non mi importava se la gente diceva, ah, ma come, perché qui è più importante se canti in Italia, in italiano, no? Sì. Io sono capace di cantare in italiano, ma ovviamente questo disco non è venuto fuori così come un disco in italiano, per cui è venuto fuori così. Comunque sono fiera, c'è delle persone anche che magari uno poteva dire, ah, ma i brani devono essere tutti più commerciali. Sì, magari ci sono quelli che sono più commerciali, ma io non ero concentrato su quello, era proprio un insieme di cose, no? Per cui io sono molto contento, sono felice che è venuto fuori come è venuto fuori. Si è badato alla qualità, quella era importante. Commerciali sì, ma fino a un certo punto, prima la qualità, poi tutto il resto, secondo me, secondo noi. Sì, infatti. Questo è un inizio intanto. Eh sì, infatti lo vivo, nella vita ci sono sempre inizi, per certo. Cui sì, un inizio. E la tua relazione d'amore quotidiana? Bellissimo, guarda, io ti posso dire che di lavorare, per cui io e mio marito facciamo tutto insieme, se io sto cantando un giro lui è sempre con me, facciamo le cose insieme, e adesso c'è la bambina, per cui è proprio bello, anche a casa se io sto lavorando sulla musica, lui è lì sul computer a fare le cose, c'è la bambina lì che... È bellissimo, ti dico che non c'è niente come amore, è la cosa più importante in tutto il mondo, è veramente lo è. Vorrei che tutti fossero così felici come sono io, veramente. Certo. E insomma, nei testi comunque si capisce che oltre a tuo marito c'è anche l'amore che hai per Dio, giusto? Oh sì. Guarda, se non fosse per Dio non sarei neanche qui, non sarei neanche la persona felice come mi vedi adesso, perché veramente volevo anche dire con questo disco, trasmettere questo, che so che ci sono, con la musica è uno strumento molto importante e nel mondo ci sono tantissime cose brutte, no? Pesante, e io volevo trasmettere che l'amore per un Dio che esiste davvero, che ci ama, che non ci abbandona mai, che è lì per aiutarci, che è veramente un Dio vero, un Dio che è amore. Perché ci sono tantissime cose negative e io penso, se io devo scrivere un qualcosa mio, vorrei trasmettere l'amore, vorrei trasmettere qualcosa che possa cambiare la vita di qualcuno in meglio, no? Certo. Perché c'è sempre qualcosa, una brutta notizia in questo mondo, basta a vedere il telegiornale, tutta la roba che c'è in giro. Certo. Per cui penso di dare incoraggiamento, di quello è, sono cose che non hanno prezzo, no? Perché non sa mai la persona che ha bisogno veramente di incoraggiamento, per di amore, per poter andare avanti un altro giorno, non si sa mai queste cose qui, per cui grazie all'amore di Dio io ho superato momenti difficili nella mia vita, e volevo anche dire che anche le persone che stanno vivendo momenti difficili con Dio possono superare anche quei momenti difficili, anche situazioni più pesanti. Perché niente, con Dio niente è impossibile. Senti Sherita, volevo chiudere, cioè volevo far ascoltare la canzone che chiude il tuo lavoro, cioè Your Love, visto che parliamo d'amore, è giusto secondo me far ascoltare questa canzone. Allora, l'ascoltiamo e poi magari ci arriviamo verso la fine, verso i saluti finali, va bene? Va bene. Allora, Your Love, la canzone che chiude il lavoro di Sherita, cioè Time of Butterfly, uscito da pochi mesi, da pochissimi giorni. È bellissimo. Your Love. Not like any other. You got me saying my oh my. We were made to love each other. A love straight from heaven that makes me feel so complete. You got me saying saying my oh my. We were made to love each other. A love straight from heaven that makes me feel so complete. You got me singing. Singing. Sherita, ci sei? Sì. Ah, ti riporto una frase che mi è arrivata nella mia home page di Facebook, nella mia bacheca, e dice Luisa, bella l'espressione di Sherita sull'esistenza di Dio e sull'amore. Senza questi elementi non ci può essere vita. Oh, che è vero, che bello, è vero. Io sono una persona, guarda, dentro io sono un orsicchioto di peluche, sono un peluche dentro, sono fatta così, guarda, è vero. ti sei sciolta? Sì, anche, sì, ma anche di no, è stato veramente passato un bel bellissimo tempo con voi su radio. Grazie. Senti, un'ultima cosa, poi Maurizio ti deve chiedere un particolare sulla canzone. Dove si trova il tuo disco? Dove si può acquistare? Guarda, si può acquistare su iTunes, su Amazon.com. Sì. E ci sono tantissimi altri portali digitali sull'internet, ma quelli sono quelli più conosciuti, diciamo. Certo, iTunes, certo. Amazon. Una cosa volevo chiederti, Sherita, sulle cuffie le voci ti imbalzavano da un canale all'altro, una bella sensazione, questo incastro di voci in questo pezzo di Your Love. È una sensazione, guarda, molto bella sentirlo nelle cuffie, queste voci, grazie, che si rimbalzano da un canale all'altro. Guarda, quel pezzo lì, mamma mia, ma ovviamente su tutto il disco, perché ho fatto tutte le voci. Esatto, volevo proprio chiederti questo. Volevi chiedermi quello? Esattamente, so, questo. Come è stato di cantare tutte le parti vocali? Esatto. Che è stata una bella impresa, perché sono una persona molto esigente con me stessa. Se, ovviamente, se non mi piace, devo farlo finché mi piace, finché viene in maniera molto bella, no? Per cui ho cantato per tantissime ore, ovviamente creando dei cori, per quello ho scherzato dicendo 3.000 voci, ma veramente per me sembrava così, e posso assicurare che anche per Gian Maria, produttore musicale, che per lui sembrava così, con tutte le voci che dovevo sentire, registrare, traccia qua, traccia di là. Ma è stato proprio, mi sono sentita una soddisfazione, che ti posso dire, mi sono sentita soddisfatta come artista nel poter farlo. Ma Your Love è stato uno dei pezzi che, per quanto riguarda i cori, che un po', no, c'era un sacco di lavoro dietro quel brano lì per i cori. In più, quando abbiamo dovuto preparare il brano per Milano Gospel Festival, sì, per prepararlo per un coro, per cui lì è una cosa se l'ho cantato io, ma di fare tutte le parti per capire, ok, qui per il tenore, qui per il basso, qui per... è stato un lavoro pazzesco. Una faticaccia, insomma. Una faticaccia. Mamma mia, ma bello. Per cui sento quel brano lì, penso, wow, siamo diventati matti per i cori di quella canzone là. Sherita, ti porto i saluti di Alberto Prisco, che andrà in onda tra pochissimi minuti dopo i tuoi saluti, praticamente. Oh, va bene, ciao. Aspetta che lo senti. Ciao. Ciao. Sherita, noi ti salutiamo adesso, perché appunto c'è Alberto con la sua classifica di musica rock e con il suo programma di rock, e lasciamo quindi lo spazio. Noi ti ringraziamo veramente di cuore, da tutta Blu Radio Veneto, della tua partecipazione in questa serata. Grazie a tutti voi, veramente mi sono sentito proprio a mio agio, come se fosse a casa mia. Ma noi vogliamo questo, cioè una chiacchierata fra amici, in famiglia, come si suol dire, no? Infatti, è come mi sento, veramente. Grazie a tutti voi, vi mando un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori, veramente. Grazie per le bellissime parole, sono molto contento che vi è piaciuto il progetto. Sì, molto. Grazie. Molto. Ci rivedremo. Certo, noi, anzi, così ci sentono tutti, te lo facciamo veramente che sentono tutti. Ti aspettiamo qui live a cantare. Va bene. Ok? Quando vuoi tu, ce lo dirai, quando sei pronta, puoi venire, insomma. Ok. Va bene. Senti, con che canzone vuoi che chiudiamo? Right on Time. La 5, ok. La traccia numero 5, ok? Va bene. Sherita, un bacio, un abbraccio da parte di Agostino Spolaore, di Maurizio Calzavara e ci sentiamo. Va bene, ciao, un abbraccio. Ciao, Serita. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. You gave your heart to another, saying it's all right. Then came the stormy weather, and they said goodbye. Now you don't know who you can turn to when you need a shoulder to cry. 'Cause no one will love you like I do, and I'll tell you why. When the sun shines around, I'll be there, my love you will find. In the thick or the thin, when no one cares, I'll be right by your side. When you fly, if you fall, I will catch you. If you're wondering why, in the good, in the bad, happy or sad, my love is right on time. Sono le 22 e 32 minuti.